Ma quindi anche nel tuo settore ci saranno delle rivoluzioni? Vuoi dirmi che fra non molto tu sarai sostituito da un QR code? Beh, spero di no, anzi ne sono sicuro, però anche la mia professione ne sarà profondamente influenzata. Ad esempio, così come oggi per uno chef non è facile ricostruire in maniera certa e rapida la filiera produttiva di tutti gli ingredienti di un suo piatto, per noi consulenti è molto complesso ricostruire la storia di ogni singolo strumento finanziario che selezioniamo. Ti faccio un esempio pratico. Nella costruzione del tuo portafoglio hai preteso una grande attenzione al tema della sostenibilità, chiedendomi cioè di escludere i titoli di aziende che non rispettino parametri di sostenibilità ecologica, di attenzione sociale verso i lavoratori e che gli organi di controllo fossero correttamente trasparenti. Siccome non possiamo fidarci del giudizio dell'oste nel valutare la bontà del vino, è quindi necessario effettuare profonde e dispendiose analisi su ogni singolo servizio finanziario prima di arrivare ad inserirlo in portafoglio. Se noi consulenti avessimo a disposizione un servizio di tracciabilità di ogni servizio finanziario presente sul mercato, potremmo processare un numero più alto di servizi concentrandoci su altre parti del processo di consulenza. Per te cliente questo si tradurrebbe in migliore efficacia del tuo portafoglio e minori costi di gestione, visto che, ad esempio, si renderebbero inutili le attuali società di rating che certificano il livello di rischio dei servizi finanziari. Per cui il QR code sarebbe sui servizi finanziari e non su di me. Del resto, se vuoi gustare un buon piatto, avrai sempre bisogno di un ottimo chef che utilizza ingredienti di cui è certo. E se vorrai gestire al meglio i tuoi risparmi, avrai sempre bisogno di un buon consulente che utilizza servizi di cui è certo, analizzati con la tecnologia blockchain.